Un saluto da Anna Migliorati. 31 dicembre si chiude oggi il semestre europeo di presidenza italiano e allora è tempo di bilanci. Dopo 6 mesi di presidenza di turno dell'Unione Europea, l'Italia passa il testimone alla Lettonia in questo inizio 2015. Il presidente di turno eredita per lo più dossier già in corso e ne apre di nuovi. Il suo ruolo è quello del mediatore tra i 28 governi dell'Unione, del maestro di cerimonie, una specie di Lord Chamberlain europeo. In questo senso, parlare di sconfitte o di vittorie ha il pregio della semplicità, ma travisa la realtà. Il governo italiano non è riuscito a chiudere la partita dell'etichettatura dei prodotti non alimentari, cavallo di battaglia dell'establishment italiano. In compenso è riuscito a imprimere un cambiamento di rotta in due campi. In politica economica la diplomazia italiana è riuscita a sensibilizzare i partner sull'urgenza di rilanciare la crescita economica per ridurre il debito pubblico, evitare la deflazione, scalfire le tensioni sociali. Sul fronte dell'immigrazione, il governo italiano ha sottolineato l'importanza di una politica europea segnata da un maggior coordinamento tra i 28. L'operazione Triton, a cui partecipano 21 paesi su 28 nel Mediterraneo centrale, ne è l'esempio più chiaro ed evidente. Terminato il semestre di presidenza, per il governo italiano il lavoro continua. Se vuole ottenere risultati duraturi, dovrà dimostrare coerenza e costanza. Due qualità non sempre nazionali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Domani la presidenza dell'Unione Europea passerà, sentivamo, alla Lettonia 2015, che si apre all'insegna dei paesi del nord. Benvenuti nella famiglia dell'euro, così con un laconico video postato su Twitter. Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha salutato oggi l'ingresso della Lituania nell'Eurozona. Eurozona che, arricchendosi di un nuovo componente, passa da 18 a 19 proprio nel 15° anniversario dell'avvio della moneta unica nel 1999. E così a partire da domani saranno circa 337 milioni gli europei a condividere la stessa moneta. La Lituania abbandonerà la sua valuta nazionale, la Litas, per aderire alla moneta comune. Si tratta dell'ultimo paese baltico, dopo l'Estonia nel 2011 e la Lettonia nel 2014, a compiere questa scelta che, anche alla luce della crisi ucraina, assume un significato geopolitico oltre che economico. Europa economica che guarda però ancora a sud, ad Atene, dove il voto sarà il 25 di gennaio, la campagna elettorale di fatto già nel vivo, ma la sinistra di Alexis Tsipras, in vantaggio nei sondaggi, ammorbidisce i toni, inizia a dialogare con Berlino. Il premier greco Antonis Samaras, il giorno dopo le decisioni di andare al voto il 25 gennaio, ha accusato la sinistra radicale di Syriza di rimettere in gioco la permanenza della Grecia in Europa. La campagna elettorale si annuncia dura e senza esclusioni di colpi. Syriza vorrebbe mettere fine alle politiche di austerità, ma non avrà la maggioranza assoluta, quindi sarà costretta a trattare su posizioni più moderate. Per questo i mercati sono più tranquilli, certi che un accordo alla fine si troverà. Intanto, da Atene giungono voci di prime prove di intesa tra Berlino e Siriza. I nuovi equilibri in Europa per il 2015 iniziano le prove generali ad Atene. Vittorio Larolda, Radio 24, Sole 24 Ore, Atene. E Bruxelles nell'ultima giornata dell'anno prende posizione anche sulla decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU di respingere la risoluzione palestinese su un accordo di pace con Israele. Sottolinea la necessità urgente di una ripresa dei negoziati tra le due parti, ha commentato l'alto rappresentante europeo per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. L'obiettivo comune europeo, ha insistito la Mogherini, è giungere a un accordo di pace globale basato su due stati. E per quest'anno è tutto per l'appuntamento con l'Europa, che torna però puntuale anche l'anno prossimo. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.